Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e apparve trasfigurato davanti a loro. La sua faccia diventò splendida come il sole e le vesti candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia in atto di conversare con lui. Allora Pietro prese la parola e disse: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e un'altra per Elia». Mentre egli stava ancora parlando, una nube splendente li avvolse, e dalla nube si udì una voce che diceva: «Questi è il mio figlio diletto, nel quale ho posto la mia compiacenza. Ascoltatelo». All'udir ciò i discepoli caddero faccia a terra, presi da grande spavento. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Essi, alzati gli occhi, non videro nessun altro all'infuori di Gesù. Ora, mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non fate parola con nessuno della visione, finché il Figlio dell'uomo non sarà risorto da morte». Allora i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose: «Elia sì deve venire e restaurerà ogni cosa, ma io vi dico che Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto, così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli capirono che egli intendeva parlare di Giovanni il Battista. Quando furono tornati presso la folla, si avvicinò a lui un uomo che, gettatosi in ginocchio davanti a lui, disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio che è epilettico e soffre. Molte volte, infatti, cade nel fuoco, altre volte anche nell'acqua. L'ho portato ai tuoi discepoli, ma essi non sono stati capaci di guarirlo». Rispose Gesù: «Generazione incredula e perversa, fino a quando dovrò restare con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemi qui il fanciullo». Allora Gesù, con parole minacciose, comandò al demonio di uscire da lui. Da quell'istante il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli domandarono: «Perché noi non siamo stati capaci di scacciarlo?» Egli rispose: «A causa della vostra poca fede, poiché in verità vi dico, se avrete fede anche quanto un chicco di senapa e direte a questo monte: spostati da qui a lì, esso si sposterà, nulla sarà a voi impossibile. Ma questa genia non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno». Mentre si aggiravano per la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo metteranno a morte, ma il terzo giorno risorgerà». Essi furono presi da grande afflizione. Venuti a Cafarnao, quelli che riscuotevano il didramma si rivolsero a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga il didramma?» Ed egli: «Sì». Quando tornò, Gesù lo prevenne dicendo: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono tasse e tributi? Dai loro figli oppure dagli estranei?» Ed egli: «Dagli estranei». Allora Gesù disse: «Perciò i figli ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il pesce che per primo abboccherà. Aprigli la bocca e vi troverai uno statere. Lo prenderai e lo darai loro per me e per te».